L'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, women, uniques, mujeres. Buonasera a tutte e a tutti, siete all'ascolto della trasmissione Controessenze a cura di Connettive, in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Con grande piacere oggi presentiamo il Foro per l'abolizione della cultura prostituente, un gruppo di compagne abolizioniste argentine di Buenos Aires che abbiamo avuto il piacere di conoscere. E ora leggiamo quali sono gli obiettivi del foro e la loro dichiarazione di principi. Il foro è un collettivo apartitico di abolizioniste indipendenti. Ha come obiettivo la collaborazione con gruppi e organizzazioni abolizionisti nella divulgazione dell'abolizionismo e delle sue idee, proposte e azioni da una prospettiva teorica, etica, politica, pedagogica e multidisciplinare. Aspiriamo alla costruzione congiunta di una rete che porti alla comunicazione, diffusione e amplificazione del movimento abolizionista. Intendiamo l'abolizionismo come una delle posizioni possibili sul tema della prostituzione, opposta alla visione proibizionista che tende a combattere la prostituzione legalizzandola, perseguendo e sanzionando le persone che la esercitano, e opposta anche al regolazionismo che fa finta di affrontare i problemi che riguardano le donne, i travestiti e i trans che si prostituiscono, legalizzando la prostituzione e lasciando la regolamentazione nelle mani dello Stato, sindacati e del libero mercato. Noi parliamo di abolizione della cultura prostituente e non della prostituzione, semplicemente, per mettere in chiaro che la nostra lotta non è contro le donne, i travestiti e i trans che si prostituiscono, ma contro la prostituzione come fenomeno sociale. Consideriamo che il fenomeno della prostituzione non si riduce a una questione di diritto del lavoro né a una questione di libertà individuale, ma è un fenomeno sociale e di diritti umani che ci riguarda tutte e non deve essere naturalizzato né legittimato, poiché rappresenta una delle maggiori espressioni di disuguaglianza di genere. La prostituzione è una lezione sociale di disuguaglianza e pertanto un problema di diritti umani. Non discutiamo e non neghiamo i diritti e le libertà delle donne, dei travestiti e dei trans in prostituzione, ma semplicemente consideriamo che la strada migliore per difendere questi diritti e queste libertà non sia la regolamentazione statale, ma il mettere in discussione il privilegio maschile di disporre dei corpi in cambio di denaro. E per la stessa ragione noi ci opponiamo, per esempio, alla tristemente detta maternità surrogata. Intendiamo che la regolamentazione della prostituzione non favorisce coloro che la esercitano, ma i prosseneti, e legittima socialmente il privilegio maschile. Troviamo che la difesa dei diritti delle donne travestiti e trans passi piuttosto attraverso il fatto di esigere l'accesso all'educazione, ad opportunità lavorative reali e alla deroga delle regole che possono servire come scusa per la persecuzione delle persone che sono in prostituzione. De Cuba, eso. Para el mundo, internacionales, presentes, Cruda Juventud, las mujeres resistiendo, desde Zepa, resistiendo, Black People resistiendo, emigrantes resistiendo, Latinoamérica resistiendo, revolucionaria resistiendo. Se attualmente chi esercita la prostituzione lo fa in condizioni indegne, questo non è dovuto alla mancanza di leggi che la regolano, ma dalle violenze esistenti. E questo è ciò su cui si dovrebbe concentrare, oltre all'eliminazione delle tradizioni, degli stereotipi e dei pregiudizi sociali che sostengono sia lo sfruttamento sessuale che la stigmatizzazione delle persone sfruttate, il che significa l'abolizione della cultura prostituente. Noi riteniamo che tratta e prostituzione, sebbene siano fenomeni diversi, sono intrinsecamente legati. Entrambi sono espressione dell'articolazione del capitalismo liberale e del patriarcato. Non è un caso che la prostituzione ricade principalmente su donne, travestiti, trans, bambini, che sono entrambi minoranze storicamente pauperizzate, oppresse ed escluse economicamente, culturalmente e socialmente dal patriarcato. Per questo è banale e cinico parlare di libertà di scelta in un contesto di disuguaglianza di opportunità, in assenza di reali opzioni reali e concrete di lavoro e identitarie. I paesi che hanno legalizzato la prostituzione non solo non hanno ridotto la tratta e la pedofilia, ma hanno dovuto far fronte a un aumento, e ciò dimostra la necessità di lottare contro entrambi i fenomeni come parte di una stessa problematica. Sosteniamo che i responsabili della prostituzione sono gli uomini prostituenti, a causa della loro domanda, e lo Stato, da un lato attivamente, l'esercizio dell'attività legale delle compagne in situazioni di prostituzione e l'assenza di alternative lavorative, di istruzione e abitative per coloro che desiderano non entrare in prostituzione o sono state riscattate dalle reti della tratta, e dall'altro passivamente, la permissività, la tolleranza e complicità con le attività illegali di prosseneti e trafficanti. È per questo che noi pensiamo che le azioni debbano essere fatte sul piano culturale e non solamente legale, poiché lo Stato stesso è prostituente. Aspiriamo ad un mondo in cui gli uomini non ritengano naturale, necessario, obbligatorio oppure desiderabile pagare per il sesso. La prostituzione ha a che fare con una concezione della sessualità mercantilizzata, subordinata al desiderio maschile, e pertanto unilaterale e gerarchica, in cui decide chi ha maggiore potere, libertà, denaro. La nostra concezione della sessualità, invece, si basa sull'accordo tra persone ugualmente adulte, coscienti e libere, e con uguale potere per negoziare le condizioni della relazione che ha come fine il godimento. Se la sessualità è un mezzo di espressione e di relazione di tutti i soggetti coinvolti, non è possibile realizzarsi pienamente, liberamente e degnamente quando è un mezzo di sopravvivenza di uno di essi. E per questo sosteniamo che l'abolizionismo è pro-sesso e la prostituzione non è sesso, ma sfruttamento, violenza commercializzata e legittimata. Per tutto ciò l'abolizionismo non è un posizionamento morale, ma politico. La nostra aspirazione massima è un mondo nel quale le persone possono relazionarsi sessualmente e affettivamente in condizioni che descriviamo come uguaglianza, libertà, reciprocità, cose che il capitalismo patriarcale non permette e stimola attualmente. Crediamo che questo mondo che sogniamo può realizzarsi. Come il capitalismo e il patriarcato, la prostituzione non è un fatto naturale né eterno. È un'istituzione sociale e storica e come tale può essere abolita. Come diceva Brecht, ciò che accade tutti i giorni non consideratelo naturale, perché in tempi di disordine, di ordinato disordine, di disumanità umana, nulla deve sembrare naturale, nulla deve apparire impossibile da cambiare. Ki ki jana mwezi nyabo na shindwa na mali sina we Nashinduana malisi na we Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Questi gli obiettivi del foro per l'abolizione della cultura prostituente. Ora leggiamo un altro documento pubblicato dalle compagne per comprendere meglio ancora le loro finalità, gli obiettivi, la politica e anche i loro sogni. All'interno dei movimenti femministi antipatriarcali e della differenza esistono due correnti in contrapposizione sul tema della prostituzione. Quella regolamentarista o regolazione e quella abolizionista. La prima in generale afferma che la prostituzione esisterà sempre, per cui la cosa migliore sarebbe darle un riconoscimento legale e giuridico riconoscendola come lavoro, in modo tale che le persone maggiorenni che la scelgano volontariamente, e qui volontariamente tra virgolette, possano avere gli stessi diritti degli altri lavoratori. La corrente abolizionista invece intende la prostituzione come una forma di violenza di genere che colpisce le donne, le bambine e i travestiti, la cui maggioranza schiacciante ci arriva per restarci una media di 12 anni come ultima possibilità di sopravvivenza, e la corrente abolizionista appunto mette in discussione il contesto in cui alcuni dicono di fare una scelta, sempre tra virgolette. Questa corrente ritiene che la prostituzione non sia una pratica che ha a che fare solo con i singoli individui isolati, uguali e autonomi, bensì ha un'istituzione emblematica del patriarcato che si basa sulla naturalizzazione dell'idea di una sessualità mascolina incontrollabile e che i corpi femminili devono rimanere a disposizione di questa supposta necessità. Oggi prevale un discorso idilliaco sulla prostituzione, fallace per la maggior parte delle persone che la subiscono giorno per giorno, che utilizza una terminologia e dei concetti che nascondono la realtà per non riflettere sull'orrore in cui consiste la pratica prostituente, così come le stesse sopravvissute raccontano. questo discorso rappresenta le persone prostituite come dei soggetti sessualmente liberati, con poteri su se stesse, imprenditrici che utilizzano gli uomini e raggiungono i propri scopi, invertendo in realtà la situazione di oppressione e di genere. Non importa come vuole operare una risignificazione della realtà questa teoria relativista che nasconde la violenza con degli eufemismi. Se al giorno d'oggi le donne faticano a negoziare l'uso del preservativo nelle relazioni paritarie in un contesto di presunta affettività, come possiamo sperare in un contesto di relazione commerciale in cui il cliente ha sempre ragione? Coloro che sostengono la visione regolamentarista accusano l'abolizionismo di paternalismo, volendolo confondere con il proibizionismo, che è la persecuzione penale delle persone che si prostituiscono. Fanno credere, con l'inganno, che il regolamentarismo è l'unica risposta possibile per la protezione delle donne e dei travestiti in prostituzione. Chi sostiene questo discorso si autovittimizza dicendo che nessuno ascolta la loro voce, quando in realtà sono l'unica voce che si sente, la voce delle lobby pro prostituzione, che hanno persino delle superproduzioni come per esempio The Client List, Mi nombre es Bruna, Satisfaction, The Girlfriend Experience, Il Negozio ed altri. Nel sistema capitalista la prostituzione è anche un'industria che genera e smuove miliardi di dollari, anche se sono le donne prostituite che muoiono sempre povere. Questa industria globale, come le persone intelligenti possono intuire, non si può sostenere solo con le donne adulte che gestiscono loro stesse, che liberamente e autonomamente scelgono o decidono di dedicarsi ad essere penetrate in tutti gli orifizi che ha il loro corpo, ad essere bagnate di sperma, urine, sputi, eccetera. Al contrario, si avvale di una grande e assoluta maggioranza di donne, in genere minorenni, che molte volte sono la mercanzia più ricercata, oltre ai travestiti. Donne povere, migranti, che fuggono disperate dalla miseria, da abusi e maltrattamenti di tutti i tipi, i cui diritti sociali e culturali ed economici sono stati totalmente violati e senza opzioni reali e concrete di sostentamento. Per colmo, molte volte, con figli da sfamare o familiari da mantenere. E se ciò non bastasse, c'è la tratta a fini di prostituzione, sequestri, rapimento, sfruttamento sessuale. Di fronte a un simile panorama economico, storico e sociale, poco importa che alcuni dicano che scelgano di fare le prostitute o che la tratta e la prostituzione non vengono messe in relazione. E mentre molti pare che ignorino o desiderino ignorare tutto ciò, ci sono organismi internazionali che iniettano milioni di dollari per favorire in tutto il mondo la regolamentazione della prostituzione come lavoro sessuale. E perfino molti sembrano disconoscere che le associazioni di lavoratori sessuali sono controllate o dirette da prosseneti, sfruttatori o ex prostitute divenute sindacaliste, oltre a portare all'inserimento nel PIL di somme astronomiche che prima rientravano nella sfera informale. Inoltre la prostituzione è una cultura che va molto bene con il neoliberismo e con il capitalismo, che rende le persone semplici oggetti per il piacere dei maschi, che possono accedere ai colpi delle donne, dei travestiti, dei trans e dei bambini, in cambio di una somma variabile e estorsiva di denaro. La legittimazione di una sessualità prostituente riafferma un tipo di mascolinità misogina e macista che si estende al resto della società ed è fondamentale per sostenere il sistema capitalista, patriarcale, eterosessista. Lungi dall'essere un tema che riguarda le persone che sono o sono state in questa situazione, il foro cerca di portare strumenti critici per sradicare la cultura che naturalizza l'idea che gli uomini paghino per soddisfare il proprio desiderio, desiderio di trovare piacere nell'abuso sessuale. Di fronte al disconoscimento dei danni psichici e fisici che produce la prostituzione, questo foro, dicono le compagne, cerca di rendere visibile la lotta storica che sta venendo fuori come forma organizzata e resa invisibile di donne travestiti, sopravvissute e sopravvissuti e o in situazioni di prostituzione. In un contesto di crescente violenza contro le donne e i travestiti, il foro per l'abolizione della cultura prostituente cerca di pensare come mettere in discussione il modello di mascolinità egemonica per costruire una società più giusta. Le donne, i trans e i travestiti non chiedono l'uguaglianza formale con gli uomini, né la stessa possibilità di sfruttare, violare, assassinare. Lottiamo per una sessualità libera, desiderata e ugualitaria. Proponiamo di spostare il fulcro del dibattito, ancorandolo alle ragioni delle donne, delle bambine, dei trans e dei travestiti, anziché alle ragioni degli uomini prostituenti. In questo modo noi interpelliamo tutti come società, mettendo in discussione il sistema economico, politico, sociale e culturale che sostiene questa pratica e rendendo visibile la necessità di trasformarlo. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte, claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Allora, adesso leggiamo una lettera che le compagne argentine del movimento abolizionista argentino hanno inviato a Resistenza Femminista, ci hanno inviato. Cioè, ricordiamo che Resistenza Femminista è un'associazione che raccoglie femministe abolizioniste che provengono da diverse parti dell'Italia e che diffonde attraverso internet e sui social network le informazioni e i contenuti del movimento abolizionista a livello internazionale. Questo è quello che hanno scritto le argentine. Care compagne, di fronte all'avanzata in tutto il mondo del regolamentarismo nell'ambito della prostituzione, animato da scopi commerciali ma mascherato da buone intenzioni, che ha infiltrato anche il movimento femminista, vi inviamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Al contrario di ciò che si proclama, il regolamentarismo non comporta l'empowerment e la difesa di donne, bambine, travestiti e trans, ma favorisce solo gli sfruttatori e manda un messaggio di permesso sociale e di legittimazione della reificazione, della mercificazione, della disuguaglianza e dello sfruttamento, che si traduce in un aumento della domanda e del circuito illegale, come dimostra l'esperienza dei paesi che hanno seguito questa strada. Non lasciamoci ingannare, la prostituzione non ha a che fare con i diritti e la libertà di donne, travestiti, trans, ma con la difesa del privilegio degli uomini prostituenti di accedere ai loro corpi. La prostituzione non è un dato naturale, non è eterna, è un'istituzione sociale storica e come tale può essere abolita. Come disse Brecht, non accettare ciò a cui sei abituato come una cosa naturale, perché in tempi di disordine, di confusione organizzata, di umanità disumanizzante, nulla deve sembrare naturale, niente deve sembrare impossibile da cambiare. È necessario che ci organizziamo e che costituiamo una rete internazionale per affrontare questo nuovo attacco del capitalismo patriarcale, poiché la prostituzione è incompatibile con gli ideali femministi di uguaglianza, dignità e fine dell'oppressione macista. Saluti in sorellanza dall'Argentina. Y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren. Dunque, rispetto al discorso del sistema prostituente, lasciamo... leggiamo le parole di Rachel Moran. Rachel Moran è una sopravvissuta alla prostituzione attivista e cofondatrice di Space International, che è un'organizzazione che riunisce sopravvissute che provengono da 7 paesi diversi, e per noi, in quanto associazione ma anche in quanto individui, è stata una grande fonte di ispirazione ascoltare le sue parole, leggere il suo libro Testimonianza Paid For, che è stato tradotto in italiano e che sta per uscire per la Round Robin, è edito dalla Round Robin editrice, con il titolo Stupro a pagamento, la realtà sulla prostituzione. E ci ha dato questo libro nuova forza per lottare. Il movimento internazionale delle sopravvissute sta conducendo una battaglia per l'abolizione della prostituzione a livello globale. Combattere contro l'industria del sesso comporta però rischi notevoli per le donne che raccontano quello che hanno visto, quello che hanno vissuto. Attaccare i poteri forti significa affrontare tentativi di censura e persecuzioni violente, come è accaduto alla stessa Rachel Moran, che ha raccontato la sua esperienza in questo libro. Ma la voce delle sopravvissute non si arresta, continua a fare il giro del mondo ed viene sostenuta da migliaia di attiviste femministe. Rachel, come anche moltissime altre, hanno avuto la forza di dar voce a tutte quelle donne invisibili ridotte al silenzio da ricatti e dallo stigma. Grazie al suo impegno e a quello di altre attiviste, l'Irlanda ha elaborato una proposta di legge che introdurrà il modello nordico nel suo paese. Questo è una legge che poi è stata approvata recentemente a febbraio, grazie alla lotta portata avanti da Rachel Moran e dalle sopravvissute di Space International in Irlanda e anche in altri paesi del Nord Europa. Rachel dice: il termine mercato del sesso suggerisce che il sesso possa essere comprato e venduto separatamente dalla persona. La verità è che non puoi comprare il sesso, puoi comprare l'accesso al sesso. La differenza è di profonda importanza, è la differenza che esiste tra la condivisione di un'esperienza sessuale e una situazione dove uno dei due soggetti, chi è comprata, è costretta a subire il sesso a causa di un'imposizione. Esistono quelli e quelle che ancora si rifiutano di riconoscere che la prostituzione sia una forma di violenza, mentre si rifiutano, e questo è significativo, mentre si rifiutano di accettare l'idea che le persone che amano possano finire nei bordelli e nelle zone a luci rosse. Il motivo di questo rifiuto è che nessuna di noi accetterebbe che le persone che amiamo debbano subire violenza per sopravvivere. Se fosse esistito un qualsiasi programma di fuoriuscita delle donne in prostituzione dalla prostituzione, quando avevo 15 anni ed ero una senza tetto, non sarei rimasta nella prostituzione nemmeno per 7 giorni, figuriamoci per 7 anni. Vi assicuro che avrei fatto buon uso di un qualsiasi tipo di aiuto. Io, come tutte le altre adolescenti e donne che ho conosciuto all'epoca, non volevo che il mio corpo fosse usato da uomini sconosciuti, uomini che non mi piacevano, uomini che potevano essere mio nonno o il mio bisnonno. Se pensate che stia esagerando, vi faccio presente che uno degli uomini che mi usava regolarmente quando ero appena adolescente aveva 83 anni. La prostituzione è la massima espressione dell'ingiustizia sociale. Il fatto che le 7 adolescenti che erano con me all'angolo della strada provenissero tutte da case di accoglienza statali dovrebbe essere sufficiente per dimostrare che la prostituzione non è popolata da persone che vogliono esercitare la propria autodeterminazione e libera scelta, ma piuttosto da quelle che non hanno mai avuto alcuna possibilità di scegliere per loro stesse. Sono le più vulnerabili dal punto di vista sociale, le più oppresse dal punto di vista dell'appartenenza di classe, che vengono buttate nella prostituzione. Chiedo ai politici irlandesi di compiere un passo decisivo e approvare la Sexual Offence Bill. Initially, I gave you ever more than I had to. Un'altra testimonianza importante sul concetto di libera scelta, che spesso viene a sproposito e senza alcuna connessione con la realtà tirato in ballo dai pro prostituzione, è quello di Nicole Daniels, una sopravvissuta alla prostituzione, attivista di Space International a sostegno della Sexual Offense Bill, di recente proposta in Irlanda, e che porterà all'introduzione del modello nordico in un altro paese europeo dopo la recente approvazione in Francia. Di seguito la sua testimonianza. Dalla tenera età di 7 anni mi è stato insegnato che il mio valore era quello che avevo tra le gambe. Ho imparato tutto questo perché sono stata violentata ripetutamente da un familiare quando avevo 7 anni. Mia mamma era una prostituta. Ha rafforzato questa idea che il mio valore fosse quello che avevo tra le gambe. Proprio perché avevo una vagina, nessuno avrebbe potuto distruggermi. Lo credevo veramente. Così, quando sono stata abusata all'età di 15 anni, ancora una volta da un familiare, ero già stata avviata alla prostituzione. Ho mentito a me stessa e ho fatto la vita fino a quando la mia stessa figlia ha subito violenza sessuale. Quello che so adesso è che venendo da una famiglia disfunzionale non ho scelto io quella vita, è quella vita che ha scelto me. Come assistente sociale e attivista in prima linea ho potuto toccare con mano i danni causati dall'industria del sesso, danni subiti dalle donne che sono comprate e vendute. Si tratta di un'industria criminale in più rapida espansione nel mondo. Succede ovunque, alle nostre fermate dell'autobus, succede giù sulla strada proprio davanti al ristorante che frequentiamo. È un giro di affari plurimiliardario, è secondo solo al traffico di droga e di armi. L'età media di una vittima di tratta negli Stati Uniti è 12-14 anni. Molte vittime sono forzate o spinte con il plagio nel mercato del sesso. Molte sono già state vittime di abusi sessuali in età infantile. I trafficanti e papponi sono manipolatori esperti che riescono a conquistare la fiducia della vittima per forzarla nello sfruttamento sessuale, costringendole e tenendole a bada attraverso violenza e droghe. La natura della tratta a scopo sessuale è di tipo economico. Si tratta di un modello di domanda. La domanda maschile che alimenta la tratta a scopo sessuale, con i papponi che diventano i distributori che forniscono donne e bambini. Ci sono quelli a cui piace fare una distinzione tra prostituzione e tratta. In realtà, invece, si scopre che quelle che dicono di essere entrate nella prostituzione volontariamente, in quasi tutti i casi, sono entrate nell'industria del sesso a causa di una qualche forma di costrizione. La verità nuda e cruda sulla prostituzione è che non solo non può esistere senza una qualche forma di costrizione, ma che senza l'uso della violenza per forzare le donne, la prostituzione collasserebbe. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue, sigue chupando sangre, sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba. Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full de punto, ¿qué hago yo? Traigo cuando lucha libre, hip hop, si se pone full de punto, hay que partirlo. Todas y todos sufrimos violación, pero de Shabá nosotras somos primer escalafón. Dime, debo desnudar un bello cuerpo, dime, debo afeitarme las axilas como un puerco, dime, debo ser así, así. Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y hasta vulgar. Muy común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así no han logrado nada, nada. No son felices, no lo son. No conocen ni sus narices, no las conocen. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Ella salía del boche equipo más allá de las dos sábados en la noche. El punto pinta super serio, camisa cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha dura, humillación. Fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquier hito del anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndito o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo curvatura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal, y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar, será en este siglo o en el otro. Mientras tanto, las crudas formando fuego, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que real pila. Dolorosa esta pila, coge. 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras sus rostros nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. Sono diverse le associazioni e gruppi di donne che a livello internazionale, partendo dalla propria esperienza o in contatto con donne che l'esperienza della prostituzione l'hanno vissuta sulla loro pelle, portano avanti una lettura critica del fenomeno della prostituzione, una lettura che parte dalla materialità dell'esperienza, dal racconto coraggioso di tante donne e dalla realtà di un fenomeno emblematico delle discriminazioni, delle disuguaglianze economiche, sociali, culturali, in sostanza della violenza strutturale contro le donne. E tutte queste associazioni o gruppi di donne, spesso non a caso fuori da contesti istituzionali, partendo da questa analisi, suggeriscono l'adozione di un modello di ispirazione nordica e di una prospettiva l'abolizionismo, lo hanno detto bene, benissimo le sorelle argentine, ci uniamo a loro, non è altro che una visione del mondo senza prostituzione, senza la disuguaglianza e la violenza insite nella prostituzione, perché la prostituzione è

pressed against my face. Oh, you're too damn much for me. She's got too damn rough. And I pushed away my plate. Said, boys, I've had enough.